Una sera d'autunno mi faccio accompagnare dalla chitarra, da una malinconia che non so spiegare, ma lascerò delineare la tristezza al tempo. Evolverò dalla condizione di stallo. Condizione di stasi, immobile l'autunno. Sono solo le fasi e resto nel mio lungo sonno. Non son morta ma quasi, incessante il mio bisogno. Guardo la rosa rossa appassire prima che sia inverno. Ma la rosa rossa non lo sa che il vento la cattura, che se il cielo è terso e pioverà, la luce non le arriva, resta ignara della vanità di chi la colleziona e che prima o poi rinascerà, ma solo in primavera. Nai na nai na, na nai na nai na. Condizione di stasi, il tempo mi consuma. In autunno un po' muoio assieme alla natura. Non son morta ma quasi, mi sorprende la paura. Sono la rosa rossa di cui dovrei prendermi cura. Rossa non lo sa che il vento la cattura, che se il cielo è terso e pioverà, la luce non le arriva, resta ignara della vanità di chi la colleziona e che prima o poi rinascerà, ma solo in primavera. Immobile l'autunno, sono solo le fasi e resto nel mio lungo sonno. E lascerò delineare la tristezza al tempo. Evolverò.